voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Sabrina Monari Federzoni, 100 anni di aceto balsamico tramandato dalle donne. Io sono nata in una famiglia di acetieri e nella mia casa, nella mia tavola, ho sempre sentito l'aroma dell'aceto balsamico. Per me è un odore più di casa che di alimento commestibile. Quindi è un odore che accompagna tutta, un pochino tutta la mia vita, anche la mia infanzia. Mio nonno profumava di aceto e, in quanto lavorando, lui lavorava direttamente in cantina, era sempre intriso di questo profumo. Tra l'altro spesso si rompevano lì bottiglie nella linea di imbottigliamento, non so perché, si vede non era molto tecnologica, e di conseguenza lui si inondava di aceto, quindi questo odore era un odore fortissimo e persistente. Il profumo di aceto come filo di lana che richiama i ricordi più lontani. Così Sabrina Federzoni, quarta generazione e amministratore delegato dell'azienda modenese Monari Federzoni, considera l'aceto balsamico che da 100 anni la sua famiglia produce. Si tratta di una delle più antiche aziende italiane produttrici di aceto balsamico, nata nel 1912 come semplice acetificio artigianale e trasformatasi nel corso di un secolo in un leader mondiale riconosciuto in oltre 50 paesi. L'azienda produce ogni anno 113.000 ettolitri di aceto balsamico. Ogni giorno confeziona 198.000 bottiglie. Si estende su 74 ettari di vigneti che producono 11.000 quintali di uva e deve le sue origini a una donna, Elena Federzoni. Ecco come Sabrina Federzoni ricorda la figura della sua bisnonna. La mia azienda sarà fondata nel 1912 dalla mia bisnonna. La mamma di mio nonno, che si chiamava Elena Monari, e sposò un Federzoni, questo è il motivo dei due nomi uniti. Io non ho purtroppo ricordi diretti della mia bisnonna, è morto molto prima che io nascessi. Ho ricordi tramandati, veniva descritta da tutti come una donna molto decisa, determinata, un pochino burbera. Fu colei che direttamente da un piccolo negozio di generi alimentari con annessa trattoria creò una piccola commercializzazione di aceto balsamico che poi venne sviluppata da mio nonno e successivamente da mio padre. Non è troppo strano il fatto che sia una donna ad aver iniziato 100 anni fa un'azienda, in quanto nella mia regione, l'Emilia Romagna, l'uomo normalmente lavorava nei campi, era un contadino, e la donna, la rezdora, gestiva il portafoglio di famiglia, quindi molte occasioni hanno poi fondato piccole o grandi aziende, specialmente nel settore alimentare o nel settore dell'abbigliamento, insomma i settori un pochino più confacenti alle predisposizioni delle donne. La linea femminile è importante nella famiglia Federzoni, ma un tempo era tradizione che ci fossero delle capofamiglia anche nella zona, perché soprattutto attraverso le due guerre erano quelle che si occupavano di tenere le fila di tutto. Sempre tra i miei ricordi familiari, durante la guerra mio nonno era in guerra, il figlio di mia nonna, Elio Federzoni, e mio padre nacque sotto un bombardamento e all'epoca l'azienda veniva gestita dalla bisnonna e da mia nonna, che tra le varie peripezie portavano avanti figli, famiglia e tutto quanto. Una delle felici intuizioni della fondatrice, Elena Federzoni, che hanno agevolato la crescita dell'azienda, è stata l'aver richiesto e ottenuto fin dal 1912, prima tra le aziende del settore, la licenza ministeriale per la produzione e commercializzazione dell'aceto balsamico di Modena. Ecco come Sabrina Federzoni spiega i frutti della determinazione femminile della sua bisnonna. Era obbligatorio avere la licenza di produzione e la nostra azienda è stata la prima a richiederla. Quindi per primi la mia bisnonna aveva evidentemente intravisto la possibilità di commercializzare il prodotto con numeri un pochino importanti. Negli archivi aziendali ho rintracciato dei documenti proprio del tempo della seconda guerra in cui la mia bisnonna aveva ottenuto autorizzazione dall'allora autorità locale di inserire ingredienti diversi nella produzione del proprio aceto, quale lo zucchero, la liquirizia, durante la guerra, in quanto c'era penuria di determinate materie prime, quindi è stato ritenuto comunque interesse della comunità poter modificare la ricetta originaria, che poi è tornata a aceto di vino e mosto a guerra finita, per poter quindi continuare a garantirne la produzione. La sede ha seguito negli anni i destini dell'azienda, senza però dimenticare le origini agricole. La sede storica era Modena. poco fuori l'ex mura della città, in una zona oggi residenziale. Successivamente l'azienda ha subito vari spostamenti e oggi si trova in campagna, nella parte più bassa della pianura padana, dove noi ci troviamo, che si chiama appunto La Bassa, in mezzo all'azienda agricola. Proprio quest'anno, infatti, c'è un compleanno speciale, festeggiato in modo speciale, ricordandosi del marchio originale di Monari Federzoni. Abbiamo messo in piedi tutta una serie di attività per comunicare con il cliente, col consumatore, facendo un restyling su tutte le nostre bottiglie e organizzando un concorso che permette a tutti coloro che vorranno partecipare, indipendentemente dall'acquisto della bottiglia, di ricevere una bottiglia del centenario, quindi una bottiglia che rievoca l'etichetta originaria, che aveva un grappolo, un catenaccio e una ragnatela, che era simbolo, il grappolo dell'uva da cui deriva il prodotto, la ragnatela del fatto che il prodotto era un prodotto vecchio che aveva bisogno di tempo per nascere, e del catenaccio in quanto era una ricetta segreta. Quindi abbiamo ripreso il nostro logo originario e fatto una confezione omaggio che ci ricorda un pochino da dove siamo venuti. Nella famiglia Monari Federzoni, la ricetta dei passaggi generazionali si tramanda insieme a quella dell'aceto tradizionale. Il nostro è un prodotto molto legato alla propria terra, all'uva, al nostro terribile clima, molto caldo e umido durante l'estate e molto freddo durante l'inverno. È molto tradizionale in tutta Modena. Io ho scoperto, quando avevo credo 10 o 12 anni, che esisteva anche l'aceto bianco, in quanto per me era naturale che l'aceto fosse nero, dolce e uscisse da una botte. Ed ecco come è avvenuto l'ingresso in azienda di Sabrina Federzoni, che gestisce l'azienda dal 1999. Sono arrivata quasi per caso, proprio ieri con alcuni colleghi mi hanno chiesto: ma tu cosa volevi fare da piccola? Io ho detto: io volevo fare la maestra. Quindi non è stata una cosa premeditata, né che mio padre mi ha mai imposto. Mio padre ha iniziato a lavorare in azienda quando era già adulto, in quanto aveva un carattere forte che si scontrava con quello di mio nonno. Quindi mio padre è entrato in azienda negli anni 80, un pochino in concomitanza al ritiro in pensione di mio nonno, ed è stato mio padre quello che ha fatto il cambiamento in azienda, e da un piccolo artigiano ha iniziato a strutturarsi come tecnologia, impianti, botte, automazioni, anche come impronta industriale. Quando mi sono laureata sono stata alcuni mesi all'estero. Poi dal momento che parlavo l'inglese, mio padre mi ha detto: vieni con me da questo cliente che ho un problema, così tu traduci. E quindi è stata un'entrata assolutamente casuale, e poi dopo è stato a quel punto quasi naturale iniziare a lavorare tutti i giorni, ed ero già a tempo pieno dopo pochi mesi. Rimane infatti molto marcata la propensione dell'azienda verso l'estero, come è nelle corde di Sabrina Federzoni, che spiega come si concilia l'aceto balsamico con la cultura dei diversi paesi in cui esporta l'azienda, come Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone. In realtà l'aceto balsamico ha iniziato a crescere e a svilupparsi in termini di consumi prima all'estero e poi in Italia. L'aceto balsamico ha un gusto particolare, agrodolce, un gusto non caratteristico dei piatti italiani, che oltre a essere molto regionali, quindi molto diversi da luogo a luogo, sono molto definiti. I gusti sono dolce, amaro, salato, piccante. L'aceto balsamico invece ha un equilibrio agrodolce molto più vicino a una cucina anglosassone che a una cucina di molte regioni italiane. L'azienda ha iniziato 10 anni prima a vendere all'estero in maniera importante che a vendere al di fuori dei confini della nostra città. Dico proprio città perché già Bologna, Reggio Emilia in alcuni casi avevano abitudini diverse. E in totale il mercato dell'aceto balsamico di Modena è sviluppato al 90% all'estero, e quindi i consumi sono prevalenti fuori dai nostri confini. In molti casi noi dobbiamo fare prodotti specifici, un po' per le legislazioni, in paesi diversi troviamo legislazioni diverse, e in molti casi troviamo anche un gusto diverso, quindi è necessario per la Francia fare il prodotto un po' più profumato, per la Germania un pochino più dolce e per l'America invece un pochino più secco. La qualità però è sempre la stessa, e oggi è anche garantita, All'aceto balsamico di Modena è stato anche recentemente attribuito il marchio IGP, Indicazione Geografica Protetta, la prestigiosa denominazione della Comunità Europea che privilegia e protegge i prodotti made in Italy, la cui qualità, reputazione o un'altra caratteristica dipendono dall'origine geografica. Dopo tanti anni siamo riusciti ad avere delle regole certe. Questo nella tutela della tradizione con cui il prodotto viene fatto, del territorio a cui appartiene e anche come una importante tutela nei confronti dei consumatori che possono sapere che cosa comprano e come questo viene fatto. Sembra un ingrediente tradizionale, ma con l'aceto balsamico si può diventare una specie di sommelier e chef, utilizzandolo in modo diverso, come spiega Sabrina Federzoni. L'aceto balsamico è un prodotto di facilissimo utilizzo, questo è anche uno dei motivi del proprio successo. Nella nostra regione si è sempre utilizzato al posto del vino per fare sughi, per marinare carne, pesce, in forma ridotta, quindi concentrata sulla panna cotta, sul gelato, sulle fragole. Attualmente, soprattutto in Italia, l'aceto balsamico viene utilizzato all'80% per condire verdure cotte, crude. Nella realtà è un facilissimo alleato in cucina. La crisi è l'aceto balsamico, una nicchia quasi protetta dal sobbalzo dei mercati, ma ci sono alcuni punti dolenti, come spiega Federzoni. Il mercato dell'aceto balsamico è sostanzialmente stabile e all'interno di questo noi stiamo riuscendo ad avere alcuni piccoli incrementi. Negli ultimi 2 anni stiamo assistendo un'esplosione dei costi delle materie prime. Ed è l'aceto balsamico che insegna come sopravvivere ai momenti di difficoltà. Il nostro è un prodotto lento, per produrlo è necessario del tempo, è un prodotto che spesso rimane nelle famiglie vari mesi ed è un prodotto per la quale serve senz'altro pazienza e la parola esatta è tenacia. Siamo tutti in un momento di difficoltà, non direttamente, ma la mia azienda ha attraversato 2 guerre e crisi economiche importanti, quindi confido che tenendo duro e tenendo i piedi per terra, come dicevo prima, noi siamo proprio nel mezzo della campagna della pianura padana, sopravviveremo e continueremo, anche se lentamente, a crescere per il futuro. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.